5F. Ascolta e rispondi. Quando ricominciarono a studiare? Ricominciarono a studiare dopo che furono licenziati. Quando offristi da bere? Offrii da bere dopo che tutti gli ospiti furono arrivati. Quando iniziasti la lezione? Iniziai la lezione dopo che gli studenti furono entrati. Quando telefonasti a casa? Telefonai a casa dopo che i passeggeri furono scesi dall'aereo. Quando comprarono la casa? Comprarono la casa dopo che si furono sposati. Quando decisero di partire? Decisero di partire dopo che si furono liberati dagli impegni. Quando capirono quanto era successo? Capirono che cosa era successo dopo che si furono recati sul posto. Quando finirono il lavoro? Finirono il lavoro dopo che si furono riposati.